processo lungo e difficile, è arrivata la proposta della Commissione il 4 maggio del 2016, era una proposta che abbiamo considerato debole e del tutto insufficiente per risolvere le storture che il sistema Dublino ha creato negli ultimi decenni. Quindi abbiamo poi, nel corso dell'anno 2016, la Commissione l'esame di questo testo, a marzo dell'anno scorso, invece 2017, la relatrice del Parlamento, la onorevole Cecilia Wikström, una liberale svedese, ha presentato una sua proposta che faceva da base, diciamo, per il nostro negoziato parlamentare, che già era molto migliorativa in molti aspetti del testo della Commissione. Poi abbiamo presentato, ogni gruppo insomma ha presentato i suoi emendamenti, sono stati in tutto 1021, quindi un numero molto elevato, e sono iniziate 22 riunioni di negoziato che hanno portato poi al testo approvato due giorni fa in Commissione Libe, con una maggioranza molto ampia e trasversale che va dai popolari ai liberali, ai socialisti, ai verdi e alla CUE. Quindi ecco, a dimostrazione che quello che abbiamo voluto lanciare è un segnale fortissimo da parte del Parlamento, che bisogna modificare, diciamo, l'ipocrisia originaria del regolamento di Dublino, diciamo, un segnale che lanciamo al Consiglio, con cui poi dovremo negoziare la posizione finale, ma anche a tutti i cittadini europei, per dire che almeno una delle tre istituzioni europee si prende carico di questa questione come una questione europea che chiama a una condivisione delle responsabilità tra Stati membri, si chiama a soluzioni comuni che sole possono affrontare questo fenomeno. Quali sono i principali cambiamenti contenuti in questa riforma? Dunque, la vera rivoluzione copernicana di questa riforma è la cancellazione finalmente del criterio del primo paese di ingresso irregolare, quel criterio che ha, diciamo, nel corso degli anni lasciato le maggiori responsabilità sui paesi ai confini caldi dell'Unione. Questo criterio viene sostituito con un meccanismo permanente e automatico di ricollocamento, cui partecipano tutti gli Stati membri e non se ne possono sottrarre a pena di conseguenze sui fondi strutturali. Inoltre, questo ricollocamento, quando scatta, lascia un minimo margine di scelta al richiedente tra quattro Stati membri che sono in quel momento i più lontani dal raggiungimento della loro quota. Ci sono molte altre innovazioni profonde nel testo, ad esempio una procedura accelerata di ricongiungimento familiare, per cui basteranno sufficienti indicazioni di avere un membro della propria famiglia in un altro paese membro per essere ricollocato immediatamente in quel paese membro. C'è la cancellazione dei pericolosi check obbligatori di inammissibilità che la Commissione aveva proposto, avrebbero voluto dire per i paesi di primo arrivo un ulteriore onere e peraltro mettendo a rischio il diritto di chiedere asilo in Europa, perché si basano su concetti come il paese terzo sicuro, che come sappiamo sono molto politici e molto discrezionali e rischiavano di fare discriminazione sulla base della nazionalità. Abbiamo un rafforzamento in generale dei criteri di responsabilità che tiene in conto dei legami dei richiedenti asilo con altri Stati membri, e abbiamo ovviamente anche un rafforzamento delle garanzie procedurali e degli obblighi di informativa per tutti i richiedenti, in particolare ovviamente delle salvaguardie specifiche per i minori, che sono i soggetti più vulnerabili in quest'ambito, per cui si prevede la nomina di un tutore in 24 ore e si prevede anche una valutazione multidisciplinare che deve sempre precedere ogni decisione nei confronti del minore e che deve stabilire, diciamo, qual è l'interesse superiore del minore. Quindi, diciamo, un bilancio assolutamente positivo e appunto una piccola grande rivoluzione sarebbe nel sistema d'asilo europeo comune. Ora, questa è la posizione del Parlamento, più duro sarà il negoziato con il Consiglio. Quante possibilità ci sono che passi al Consiglio d'Europa senza che nessuno metta un veto? Siamo co-legislatori, quindi siamo allo stesso livello. Sarà un braccio di ferro molto duro, immagino, perché le posizioni di partenza sono lontane anni luce. Il Consiglio in questo momento è tutto concentrato alle politiche di esternalizzazione delle nostre frontiere e responsabilità. L'abbiamo visto con l'accordo con la Turchia, con gli accordi con la Libia, con gli accordi con molti paesi africani che mirano a condizionare addirittura gli aiuti allo sviluppo a un maggiore controllo delle frontiere. Sul fronte della solidarietà interna, della condivisione interna delle responsabilità, il Consiglio è ancora allo stallo, ci sono forti resistenze da parte di governi, alcuni più rumorosi come quelli del gruppo Visegrad, ma dietro questi si nascondono molti altri che sembrano più amichevoli ed hanno fatto le spalle all'Italia e alla Grecia, ma in realtà sono della stessa opinione, cioè di lasciare le cose come stanno e di continuare a tenere le maggiori responsabilità sui paesi di primo arrivo. Non sarà però facile, perché le resistenze si basano sugli egoismi nazionali. A qualche Stato membro sarebbe ovviamente comodissimo che le cose rimanessero esattamente come stanno, perché in questi anni, ricordiamolo, 6 Stati membri su 28 dell'Unione Europea hanno affrontato da soli l'80% delle richieste d'asilo presentate in tutta l'Unione. La questione centrale è ricordare a tutti gli Stati membri che hanno assunto degli obblighi e che non si possono volere solo i benefici di far parte dell'Unione, ma bisogna anche condividere le responsabilità. Ed è scritto tutto nei trattati, non stiamo chiedendo di inventare nulla.